Sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa continua questo spazio un po' particolare oggi di Mezzedes, spazio redazionale della radio, con diversi temi da affrontare. In particolare adesso abbiamo qui con noi la Titu Banda in questa, come dire, trasmissione monografica, monotematica, non saprei come definirla, La Sbandata, in cui ci raccontano un po' la loro storia, ma anche qualcosa di più. Da dove nasce l'idea di una banda musicale, per chi non conoscesse la Titu Banda, e quindi ascolteremo dei pezzi e con loro anche un pezzo di loro storia, ma anche come si intreccia con le strade e gli spazi di questa città. Sì, buonasera a tutti quanti, siamo qui su Radio Onda Rossa, che ringraziamo molto per darci questo spazio, questa opportunità, e siamo in studio Mario e Riccardo e Carla. E oggi parleremo e abbiamo fatto già la prima trasmissione, è un ciclo, diciamo, per introdurci alla Sbandata, quindi questo evento giunto alla quinta edizione, che si svolgerà a Roma il 29 giugno 2018. E allora, e certo, dobbiamo raccontare 20 anni di cose, quindi insomma è una cosa abbastanza affascinante, e dove qui con Mario abbiamo scelto di dargli un taglio, come dire, cronologico. Quindi eccoci Mario, ciao Mario. Ciao a tutti. Come iniziare? La banda nasce come un ensemble che nasce in contesti militari. Quando parliamo di Titu Banda e di Sbandata, parliamo di un contesto antropologicamente completamente diverso. Le bande come la Titu Banda e quelle che parteciperanno alla Sbandata sono bande organizzate orizzontalmente, non ci sono direttori, non ci sono divise, o meglio, alcune bande hanno le loro divise sgargianti. Parlare dell'inizio della Titu Banda significa parlare di come un po' si è trasformata la banda nel tempo. Potremmo andare fino alla fine dell'Ottocento con le bande garibaldine, o all'inizio del Novecento con le bande proletarie anarchiche. Quindi già da tempo le bande militari si stavano trasformando. Poi con il fascismo è arrivata, le bande sono andate sono state represse in qualche modo, almeno quelle che non si assoggettavano, e alla ripresa nel dopoguerra le bande apparivano già una reliquia del passato, una cosa da vecchi, perché c'era il rock, c'era la registrazione, il disco. Quindi parliamo degli anni 70, dove c'è una ripresa del fare musica insieme, del fare di musica insieme in maniera diversa con gli strumenti a fiato. Nascono gli Ottoni a Scoppio, imitando un po' delle bande che c'erano già in Germania, come la Sogenante, Soitutten und Blas, che facevano azioni politiche nelle manifestazioni. E gli Ottoni a Scoppio a Milano iniziano la loro storia nell'86. Da loro si formano più tardi negli anni 90 la banda Roncati a Bologna, e Alberto, che frequentava Bologna in quegli anni, romano, prova a fare a Roma la stessa cosa che facevano queste bande nuove nel panorama italiano, e quindi prova a formare un piccolo gruppo che suona musiche diverse, che è una banda sì di strumenti a fiato e di percussioni, ma è completamente diversa da quelle tradizionali. Infatti comincerei in questo modo, poi dopo leggiamo varie cose. Allora, il 1° maggio del 1998 ci troviamo al Teatro di Ostia e c'è la prima esibizione di quella che poi sarà la Tito Banda come la conosciamo oggi. E c'erano Emil Cortés, Alberto, Roberto Fega, Simone Colafranceschi, Sandrino Marzo e Max Forestieri, i Fantastici Sei. E quindi da Badagruppo, poi dopo l'estate, come ci dice Bobby, che è l'unico, diciamo, che c'è stato sin dall'inizio, quindi l'abbiamo, insomma, ci siamo prima sentiti. E dopo l'estate, quindi a settembre del 98, si sono aggiunti Sasa Aguzzo, Federica Vecchiarelli, José e Giulio Iaccarino, e questi sono i Fantastici 10, membri del primo nucleo originale della Tito Banda. E adesso vi facciamo sentire che cosa facevano. Allora, questo è un disco, il primo disco che abbiamo autoprodotto, e ne abbiamo un pochino, poi dopo te li leggo. Allora, questo è il più antico, diciamo, documento che noi abbiamo della banda ai primordi, e siamo in Sicilia, il primo tour della banda dell'estate del 99, quindi proprio, e siamo al mercato di Catania, sentite. Allora, questa è della mitica Camisola, un inno dei primi tempi, de un brano colombiano, e con questo e questo brano, niente, l'abbiamo suonato per tanti anni. E allora, siamo all'estate del 99. e dove subito dopo appunto c'è un momento, ci dice va Roberto, in cui appunto dovevano scegliere che cosa fare, e quindi forti dell'esperienza della banda Roncati e si è insomma deciso di fare una banda come quella loro, e quindi lì nasce la Ballatitù Banda come la conosciamo oggi, diciamo, con quella struttura di banda attivista. E si aggiungono poi subito dopo Claudio Trilla, Sergione, Ersilia, Antonio Coach, Paul da Brown, e deve subito dopo dal nucleo degli studenti della scuola di musica di Viti Testaccio siamo venuti io, vedevo Mario, poi Stefano Nanni, Federico eccetera, e anche vede Simona Oppio, insomma, e deve tanti altri, ora senza che li leggiamo tutti. E siamo già nel 2000, e nel 2000 c'è la nostra prima esperienza a Milano, e dove siamo andati a fare la nostra prima sbandata di sempre per noi. E quindi va a Milano, Banditi a Milano, vedete Mario? Banditi a Milano è la prima sbandata, cioè siamo all'inizio della formazione di una scena che prima sarà in qualche modo italiana, e poi conosceremo tutte le realtà simili di bande attiviste in giro per l'Europa e poi per l'America, quindi fino a formare una scena. A proposito del pezzo che abbiamo ascoltato, era un pezzo colombiano, tutte le bande attiviste hanno un repertorio originale, la Titubanda nasce con un repertorio sudamericano, quindi abbastanza fuori dal comune rispetto a quello che erano i repertori delle bande tradizionali. E quindi, infatti, per quale ragione? Per la ragione semplice, la Emilce che ha citato Riccardo prima è una ragazza colombiana che suonava la gran cassa e le percussioni in banda, e quindi portava il suo apporto culturale nella Titubanda, perché queste bande funzionano un po' così, la Titubanda funziona così, funziona come tutte le altre bande, con gli apporti culturali di ogni elemento. Quindi Alberto ed Emilce, che amavano la musica colombiana, incominciano ad arrangiare pezzi colombiani, e poi man mano si è completamente anche arricchito e trasformato il repertorio. Ma stiamo parlando della sbandata del 2001 a Milano, Banditi a Milano, e veramente è stata un'esperienza importantissima che ha segnato tutti quelli che vi hanno partecipato, perché trovarsi insieme, suonare insieme per 3 giorni e condividere esperienze, condividere la passione per la musica, la passione politica insieme, e sentirsi insieme ha creato una forza che continua ancora oggi. Le sbandate non sono soltanto in Italia. Onk, di cui parleremo nelle puntate successive, un appuntamento americano, un appuntamento negli Stati Uniti a Boston, che si rinnova ogni anno ed è diventato ormai un festival di proporzioni anche molto estese, con partecipazioni di decine e decine di bande statunitensi e non solo, anche sudamericane. Adesso c'è un Onk Rio e anche un Onk in Australia. Quindi un'esplosione vera e propria. E comunque, tornando un attimo per seguire un po' il filo, dobbiamo un po' andare veloci perché non ce la facciamo, sennò. Allora, quindi freschi della sbandata, vediamo a Milano, la Ballatitù Banda più determinata che mai vuole ricambiare subito questa esperienza, e nel 2001 fa la sua prima sbandata romana. Quindi stavamo nel quartiere Pigneto e abbiamo avuto anche il patrocinio del municipio Roma 6, E questa prima sbandata, quindi c'erano Mario, quindi noi abbiamo invitato gli Bedevottoni, Vironcati, e i Fiati esistevano già, mi sa di sì. Nella prima sbandata non ancora, se non ricordo male. Ok. Perché i Fiati Sprecati a Firenze sono arrivati dopo Campicozzoli, dopo che queste bande ancora, a un certo punto si sono ritrovate per scambiarsi tutte le esperienze, e come noi siamo un po' nati dalla banda Roncati, la Roncati dagli Ottoni, i Fiati Sprecati a Firenze sono venuti dopo di noi e si è creata la scena italiana di cui parleremo nella prossima puntata. Sì, adesso dopo faremo anche un riepilogo delle varie puntate per dare uno sguardo complessivo a tutto quanto. E allora io ora ho preparato questo brano bellissimo che cantava con noi Bianca, che vedeva attiva tutt'oggi come non mai con il suo gruppo La Llorona, e appunto La Llorona è il brano che lei cantava con noi, con altri brani ovviamente, e questo è il brano, diciamo, deve un po' più conosciuto, il suo cavallo di battaglia, sentiamolo. Llorona con la voce di Bianca Giovannini del 1999. Ciao Bianca. Allora, Mario ha trovato una cosa veramente. È un vecchio documento che volevo leggervi almeno in alcune parti, perché la dice lunga su come si organizza e sullo spirito della banda. È una banda che è autogestita, che non ha una struttura gerarchica, è difficile da gestire, e quindi questo era uno scritto semiserio ma anche per certi versi profondo sulla difesa dei diritti dei componenti della titubanda, un gioco interno, però che dice molto. Allora, primo, la titubanda nasce come atto poetico, e già qui stiamo potremmo dire qualcosa. Secondo, la Titubanda è aperta, e questo bisogna ricordarlo, la Titubanda è un gruppo musicale aperto a tutti, aperto alla partecipazione, anche chi non sa suonare è benvenuto, perché in Titubanda si può imparare. L'unica forma di regime consentita è quella del ducetto, carica assolutamente temporanea e grottesca, perché in un gruppo orizzontale ogni tanto qualcuno voleva dire la sua e forse dirla anche in maniera forte, ma questa carica nella Titubanda diventa temporanea e grottesca. L'affiatamento tra i componenti della banda va coltivato con ogni mezzo lecito e illecito, escluso l'abuso delle orsoline. Le orsoline erano un gruppetto di ragazze chiamate orsoline, per i componenti della Titubanda conoscono bene. L'autodisciplina, l'autoerotismo e l'autoregolamentazione sono ovviamente alla base di questo ardito esperimento musicale. La formazione di ognuno è cosa strettamente personale. Il successo della banda si misura anche sull'affluenza delle persone che non hanno trovato altrove stimoli per esprimersi musicalmente. Perché è vero, la cultura musicale in Italia è abbastanza sottotono, e trovare dei posti dove esprimersi musicalmente che non siano a pagamento è difficile. E ricordiamo che queste bande sono bande di dilettanti, dando alla parola dilettante il senso più alto del termine, cioè del piacere e del non essere coinvolto in questioni di professionismo e questioni economiche. Il tradimento. La forza della banda si fonda su un'alchimia di fattori imperscrutabili e surreali che le tensioni tendono a distruggere. La Titubanda nasce come atto poetico ed è ancora ripetuto, ancora. Le proprie frustrazioni, odi e rancori verso altri banditi che ci sembra stiano suonando male, fuori tempo, troppo forte, devono essere espresse rigorosamente durante i concerti, secondo l'antico codice sandriniano. Anche qui l'ironia è altissima. È chiaro che una banda di dilettanti non ha un livello altissimo di tecnica musicale, perché coinvolge tutti, quelli che sanno suonare poco e quelli che sanno suonare bene, ma l'energia e lo spirito, come vedete anche da questi articoli, è sempre alto. Vero, Ludovica? È verissimo. Ciao a tutti, mi sentite ciao, bene? Ciao, sì. Ciao Ludo. Bene, buonasera a tutti, veramente mi vengono i brividi a riascoltare queste cose, così, questi documenti così preziosi presentati così bene da voi. Vabbè, grazie bene, anche bene. A te. Senti, che ciao, ci racconti? Ludo. Ciao Ludo. Ciao Mario. Allora, ciao. Io volevo anzitutto precisare una cosa, attenzione, Alberto non è romano, Alberto è un milanese trapiantato a Roma, è e questo vero, forse vero. Rende la sua esperienza ancora più preziosa. Io non so se lui ci stia ascoltando, perché non so se sia speriamo Colombia, di sì, comunque registriamo dove. Così ognuno se lo sente quando vuole. Sì, lo chiameremo nelle prossime puntate. Ma non perché per niente, ma perché qua siamo molto filologicamente corretti, e quindi. Allora, la mia storia con la banda inizia nel 99, nell'autunno del 99, quindi dopo quella estate siciliana. Io arrivo alla Titubanda perché ero fidanzata con un sassofonista che arrivò alla Titubanda e poi fatalmente mi trascinò anche a me. Quindi per amore. Splendido vortice. arrivo nell'autunno del 99 e ecco, c'era un altro evento secondo me molto bello che la banda realizzò proprio per il Capodanno tra il 99 e il 2000, se non ricordo male, e che fu una tournée invernale nel Salento, in cui prendemmo tantissimo freddo, però fu bellissima, perché ricordo che fummo ospitati in una sorta di centro di ospitalità per i migranti, e quindi quella fu veramente una bellissima esperienza, perché abbiamo passato dei giorni vivendo proprio come vivevano loro, in questi letti a castello a tre piani, in 30 in una stanza, e in condizioni, ecco, abbastanza difficili, che ci hanno fatto capire tante cose, però è stato bellissimo perché abbiamo passato il Capodanno suonando per i migranti ed è stata veramente un'esperienza che ci ha formato, oltre naturalmente al fatto di suonare continuamente giorno e notte per almeno una settimana con tutte le situazioni atmosferiche possibili e immaginabili. Ma c'è Alberto che si ricorda bene quella, la suonata di Capodanno, e che cosa significava suonare con gli immigrati e suonare brani delle loro tradizioni senza averli mai provati. E questa è una caratteristica, esatto, anche della titubanda, che riesce a coinvolgersi con noi nella notte così fredda, perché appunto il Salento d'inverno fa veramente freddo. Io, se ci penso, mi vengono pure i brividi. E un altro concerto molto bello fu sempre in quei giorni al centro di San Foca, che era veramente come una prigione. Io mi ricordo che arrivammo e ci prese quasi male, perché c'erano questi muri altissimi, filo spinato, però quando entrammo, chi c'era se lo ricorda, fummo accolti come se fossimo veramente i Pink Floyd, perché c'era in questa stanza una marea di persone giovani che volevano ballare, volevano ascoltare la musica, gioire con noi. Insomma, io penso che quello sia uno dei momenti più belli della mia vita con la titubanda, che devo dire che è durata circa 10 anni, perché dal 99 più o meno ci sei stata 2008. Per un bel po', sì. Guarda, sì, sono io anche, mi ricordo invece che era subito dopo, Ludo, ti ricordi quel Capodanno a Matera, che era il 2000? E pure sì, lì, diciamo, nella classifica atavico, dei Capodanni al freddo, con l'orso pio che faceva vibrare la gran cassa con il suo russo, cioè cose delle cose proprio. Sì, però ecco, io credo che sia anche quello che cementa e forma anche un po' la storia condivisa di una banda di questo tipo, ed è proprio in queste situazioni che poi si creano dei legami umani e anche artistici veramente molto forti. Per cui una cosa che appunto io tengo molto a dire è che io, per esempio, sono tornata alla musica grazie alla titubanda, perché io ho una formazione classica, però poi avevo cambiato un po' strada e la banda mi ha aiutato a recuperare, a riconquistare il mio rapporto con la musica, e credo di non essere stata l'unica ad avere questo grande privilegio di ritrovare un qualcosa che avevamo dato per perso, no? E suonando per strada ritrovare il senso della musica, ritrovarlo proprio in queste situazioni, come anche i concerti che tutti gli anni si tengono sotto il carcere femminile di Rebibbia, ecco, tutti gli anni fino anche allo scorso 31 dicembre. Sì, è sempre sì. Stato in queste situazioni che per me si è sentito proprio il senso del fare musica in questo modo. Sì. È proprio questo mix di fortissima umanità che capita nei concerti della titubanda, quando i bambini o gli immigrati, e tu ne hai citato un esempio bellissimo e che nel ricordo di tutti, ma ce ne sono ogni anno, tutte queste emozioni, riportare la musica nella strada, sono cose che sottoscrivo completamente, perché sono le mie stesse, il mio stesso pensiero e il mio stesso sentire rispetto alla titubanda, che è un'esperienza. Diciamo che non si può dimenticare, va a finire nella memoria profonda di tutti quelli che poi ci sono passati o anche di quelli che ci hanno ascoltati. Questo è forse il punto di forza di queste della titubanda e di tutte le bande attiviste di strada. Sì, ricordiamo, infatti Ludovica è un'artista conosciutissima e si esibirà domani sera per la presentazione del suo nuovo disco con i Train de Ville, con Paolo. Riccardo, non è domani sera. Martedì, scusa, è martedì. Fantastico. Quindi insomma, andiamo tutti che sono bravissimi. Sì, è martedì 23 gennaio dalle 21 da Zazie, e quindi sarà anche un'ulteriore occasione per lanciare l'idea della sbandata del 29 giugno 2018, quindi sì, insomma, sì. Siateci, perché è proprio adesso che va preparato questo grandissimo evento, insomma, sì. Cui parteciperemo con grandissima gioia. Sì. Senti, intanto Ludo, che insomma musicista molto attiva eccetera, anche deve arrangiato deve qualche brano rari ma bellissimi, e senti un po' se riconosci questo, Ludo. certo, lo riconosco. Allora, questo è un brano klezmer che viene dalla tradizione dell'Europa dell'Est. Diciamo che io insieme anche a Giulio venivo da esperienze nei Balcani, nei paesi dell'Est Europa, esperienze di solidarietà con le popolazioni colpite dalla guerra, e quindi ecco, nella banda noi abbiamo portato un po' questo vento balcanico ed è stato bello perché è stato come un ingrediente in più in un calderone già molto saporito, insomma, però devo dire che è stato sempre molto molto soddisfacente riuscire a suonare questi brani. Non siamo arrivati agli anni in cui abbiamo fatto i viaggi nella Jugoslavia, vero, appena uscita, è vero, dalla successivo ancora dalla più guerra. Vento, bellissimo. Ma infatti dai, senti, arrivate insieme a Mario al 2007, dai che mancano, cioè abbiamo fatto 4 anni, ne mancano 16 in 20 minuti. Dovremmo fare un'altra trasmissione, dai, per forza. Dai, facciamo banda numero 2. Questa è la tritumanda degli inizi fino ai viaggi nei Balcani. Ecco, il primo viaggio che abbiamo fatto lì, no? Che è stato importantissimo, era dopo la guerra, questo viaggio in Croazia, Bosnia, Serbia, con destinazione il Festival di Guscia e Novi Sad, no? Insomma, abbiamo fatto un po' un salto, qui siamo nel 2007 e... Aspetta, guarda, ti correggo perché la banda è stata 2 volte a Guscia. La prima volta io non c'ero ed è stato prima del 2007, è stato forse nel 2003 perché fu un tour organizzato 2004, da Sandrino, se non sbaglio, e io quell'anno non c'ero. Poi ci fu un secondo tour che forse è quello che dici tu, okay, sì, in cui toccammo varie città, da Belgrado a Sarajevo, Mostar, anche Guscia. Mi ricordo un viaggio in pullman, tutti i viaggi in pullman memorabili, con il grande Giacinto, che io saluto, che faceva surf sul tetto del pullman. Insomma, ci sono state delle belle scene, sì, ragazzi. No, fantastico, vero? Sì, beh, scusami, mi sono sbagliato, che qui sì. Questo era il 2004, no? Sì, Mario, 2004. Il primo viaggio, diciamo. Perché i viaggi abbiamo iniziato dallo Zibibbo Tour in Sicilia, e i viaggi sono stati sempre un cemento importantissimo per la banda, cioè decidere di partire e suonare insieme per 15 giorni, un mese. Ludo, volevo chiedere a te le impressioni del viaggio, approfittare della tua presenza per le impressioni del viaggio nei Balcani, il Balkan Tour. Il Balkan Tour a cui ho partecipato io, cioè il secondo, sì. Me lo ricordo veramente come un'esperienza stupenda, perché è stato per me anche il modo di tornare in luoghi che già conoscevo, come per esempio Mostar, che è la mia città del cuore. Insomma, io ho vissuto a Mostar in tempi molto difficili, tornare lì portando appunto la musica della banda, suonare sulle rive del fiume, sotto il ponte ricostruito, insomma è stato veramente forte, una bellissima esperienza. Io poi sono tornata anche dopo perché ho un grandissimo legame con i Balcani. È stato un viaggio molto bello perché veramente anche lì non era semplice organizzarsi, non era semplice spostarsi con un gruppo di quanti eravamo? Una ventina, 20-30, sì. Perché poi c'era chi andava, tornava, veniva. Però ecco, la cosa bella è che in questi viaggi c'è sempre stata moltissima moltissima tranquillità, ecco, che si dormisse per terra in una grande palestra o che si dormisse in ostello o ospitati in case, nessuno si è lamentato, e ci sono persone di tutte le età. Io ricordo il grande Frank Zappalà, che oggi purtroppo non c'è più, ma lui si fece tutto questo tour dormendo per terra, ci aveva già, io credo, una 60 d'anni, vero? Sì, vabbè, vero. Frank era... Il grande Frank, lui sì. Non fece una piega, cioè no, era no, veramente no, una no. roccia. No. E io ricordo... Insomma, Ricordo i concerti negli orfanotrofi, che erano particolarmente toccanti, perché sia quello nel 2004 che nel 2007, perché suonare in queste strutture con bimbi abbandonati e lasciati, e trovare il modo di entrare dentro una comunicazione per cui si poteva gioire un po' con loro, sono momenti che non si possono scordare, sì. Che sì, sono sì, appunto, sì. Che vanno al di là appunto, di qualsiasi... All'inizio erano tutti un po' timidi, poi quando la musica li prendeva, mi ricordo che volevano provare tutti gli strumenti, diventavano proprio euforici, e queste sono delle esperienze, ecco, veramente molto belle. Anche queste aiutano a capire cosa, che magie può fare la musica, ecco. Sì, è la musica di un gruppo che non è su un palco, è un gruppo che ha, che condivide gli spazi con il pubblico e quindi che non si pone su un livello più alto, è toccabile, i bambini, figurati, appena, appena possono, toccano tutti gli strumenti, li provano ed erano bravi, mi ricordo. Io ne ritrovai uno che mi riconobbe dopo tanti anni nell'orfanotrofe dove andammo. Ricordo. Bello, situazioni toccanti, diciamo. Guarda, Ludovica, io ho ritrovato dei, quel tour, cioè ci sono queste registrazioni e questa è Mra, un grandissimo pezzo. Sentite dei episodi africani, no? Che, sì. Che portava Alberto. La Dedication Orchestra. Brava, sì, esatto. E questo credo che sia registrato in giro nel 2007 per dei Balcani, appunto questo viaggio che state descrivendo. Wow! Allora Ludo, senti, grazie tante allora per essere stato un po' con noi e deve raccontarci queste e tante altre cose. Se vuoi puoi anche rimanere, dici quello che vuoi quando vuoi. E, allora, noi per quindi siamo arrivati al 2007 e allora c'è stata, faccio un saltino indietro, chiedo scusa, ma la seconda, stiamo saltando da una parte all'altra del tempo, ma anche pochino... questa è una cosa bella. Sì, infatti sì. Allora, la seconda sbandata romana c'è stata a San Lorenzo nel 2004 e ci ha dato una mano l'associazione CASLAB. E anche quella, io mi ricordo, fu insomma una bella cosa, grande. E conoscemmo per la prima volta i Cador, se non sbaglio, che vennero tutti vestiti da che erano diavoletti, mi sa. Ah, diavoletti. Ma ancora me li ricordo, erano fantastici. Dissacratori. E conoscemmo, se non ricordo male, anche la Express Brass Band venne per la prima volta, no? No, la Express Brass Band venne ancora, la conoscemmo ancora prima, è stata la prima banda straniera che ha frequentato le sbandate italiane. Invece abbiamo conosciuto la Angry March Band, quindi abbiamo conosciuto una realtà negli Stati Uniti simile di bande attiviste. Sì, ma anche quello poi, insomma, ne parleremo, c'è una puntata dedicata anche a tutta questa... insomma, con missione poi con gli statunitensi e poi c'è la terza sbandata romana. Noi, cioè, quegli anni eravamo scatenati. Nel 2005 la terza sbandata romana, ancora dai, sempre a San Lorenzo, e questa volta la domenica siamo andati a Genzano di Roma per cercare di allargare un po', e quella pure fu una cosa molto insomma memorabile. Mi ricordo l'ultimo pranzo, Mario, che era domenica a Genzano, che stavamo in questo posto meraviglioso e vedevo spiegati lì da insomma la prologo, non mi ricordo, e quello fu meraviglioso. E allora facciamo Riccardo, volevo leggere le bande che hanno partecipato alla sbandata romana del 2004. Bravissimo. L'Angry March Band da New York, la Fanfare du Château da Ginevra, l'Express Brass Band da Monaco, la Fanfare Pustule da Lione, la Fanfarniente di Parigi e poi tutta la scena italiana, gli Ottoni a Scoppio da Milano, i Fiati Sprecati da Firenze, la Banda Roncati di Bologna, la Tetubanda di Roma, la Strada Banda di Roma, che è una banda che era sorella, neonata, sì, sì. Era una neonata banda che ancora è un laboratorio, sì, della, sì, un, sì, laboratorio alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio, ed è una banda attivista, sì, sì, che va in giro, molto attiva, tuttora infatti, molto attiva. Sarà con noi anche a giugno, come sempre sarà, sì, con noi a giugno. La Brasmati Orchestra, che era un gruppo romano che mi sembra che oggi non esista più. No, no, no. E la Malamurga, perché in quegli anni nascevano le murghe, che probabilmente conoscete bene perché frequentano tutti le manifestazioni insieme alla banda. E la Murga è un gruppo di percussioni e ballo di origini sudamericane, argentine, e che hanno preso una bella piega qui a Roma, ce ne sono più di una, e sono dei bei laboratori di percussioni e danza. Allora, di quegli anni, dove intanto mettiamo poi allora, questa è una cosa molto carina, personale. Questo è il primo pezzo che ho provato a proporre alla banda, ancora me lo ricordo, ero emozionatissimo. Di Cheb Khaled. Cebba, allora purtroppo è caduta la linea con Ludovica, ti ringraziamo molto, ti salutiamo molto. Ciao Ludovica, grazie. Ciao, grazie. È stato bello risentire certe cose, sì. E risentirti. Allora, noi purtroppo siamo in chiusura, quindi un po' di aggiornamenti per la sbandata. Allora, le bande stanno cominciando a confermare un po' tutte, devo dire c'è un'ottima, insomma, risposta, e quindi sembrerebbe proprio che l'invasione a giugno ci sarà, e dunque noi ci stiamo coordinando e a breve partirà la nostra campagna di crowdfunding con un bellissimo video che stiamo preparando, e quindi verrà mandato sul nostro sito e poi con gli altri social, insomma, vedrete un po' tutto. Quindi sosteneteci perché noi siamo autofinanziati, quindi siamo poveri. Quindi con il vostro aiuto sicuramente potremmo fare molto di più. E a breve partirà anche la campagna e per i volontari, perché abbiamo pensato è un'ottima occasione per giovani e meno giovani, amici, ex, eccetera, di stare tutti quanti insieme.